Ok, posa, scherzo MC. Bella posa. È dalla zia. Prima bevevo il biberoni, ora trinco la Moretti. Denti da latte, baffetti da 13 anni. Vicoli stretti a nascondino, nascosti per ore. Oggi come ieri, sempre il gioco del dottore. Cambio la visione del mondo. Capisco che non è di Lego e Pongo, ma di fango e piombo. Colgo una margherita, guardo vicino. Invisibile la fantasia che avevo da bambino. Ho imparato a scrivere, ma prima delle rime. Analisi logica, addizione, tabelline. Incline a tracciare linee da una birra oscura, creando disegni bizzarri come Luca. Dal complesso di Edipo, spesso stando in braccio, un pianto idillico in bilico tra pappa e ciuccio. Ostaggio in culla ascoltando un carillon con amici immaginari come Calvin e Ove. Diverse. Ho avuto un'infanzia semplice, ma non vuol dire che non sono un rapper. Anzi, in molte cose mi differenziavo dagli altri perché riuscivo ad aprire bene le orecchie. Numerosi ricordi importanti, uno di questi in cui non pensavo a cosa sarebbe successo più avanti. E adesso che ci penso affermo che dovevo pensarci, perché tutti prima o poi si fanno grandi. Troppe spiegazioni o giustificazioni per spiegare errori su cui marcano i tuoi genitori. Ma quando cresci rifletti su certe cose, sul tuo futuro e sul fatto che è duro, gli dai tutte le ragioni. Tornerei indietro nel tempo se potessi, e se ci riuscissi farei di tutto per rimanerci. L'importante è esserci, perché è nel presente che vivi ogni giorno e non nel passato. Riflettici. Scalciando come a calcetto, io sono uscito in fretta, tirato dal pizzetto. Ho smesso di piangere, non lacrime, ma tra alcune pagine lo rifaccio spesso. Adesso scherzo come alle elementari, scherzo fa strofe sulle strumentali. Sterzo nel seguire la strada, non sbandare, ne ho patentato una P di posa. Ma va a cagare. Non lo nego, da ragazzino non credevo ci fossero persone nate per renderti tutto nero. E speravo che in un futuro tutto ciò che avrei appreso in passato non l'avrei dimenticato. Non è mai stato così, me la cavavo, ma a volte inciampavo sugli ostacoli che detestavo. Tu ti ricordi che fan di me quello che sono, un ragazzo di provincia con la passione per il suono. Da-da-da.